Introduzione. C'è una scena nella versione cinematografica del libro di Carl Sagan Contact in cui la protagonista, un'astronoma che ha rilevato il primo segnale radio proveniente da una civiltà aliena, viene presa in considerazione per il ruolo di rappresentante dell'umanità per incontrare gli alieni. La commissione internazionale che la intervista le chiede: se potessi fare, agli alieni, una sola domanda, quale sarebbe? La sua risposta è: chiederei loro, come avete fatto? Come vi siete evoluti? Come siete sopravvissuti a questa adolescenza tecnologica senza distruggervi? Quando penso a dove si trova ora l'umanità con l'IA, a ciò che siamo sull'orlo di vivere, la mia mente torna continuamente a quella scena, perché la domanda è così appropriata per la nostra situazione attuale, e vorrei avere la risposta degli alieni per guidarci. Credo che stiamo entrando in un rito di passaggio, tanto turbolento quanto inevitabile, che metterà alla prova chi siamo come specie. L'umanità sta per ricevere un potere quasi inimmaginabile, ed è profondamente incerto se i nostri sistemi sociali, politici e tecnologici possiedano la maturità per gestirlo. Nel mio saggio Macchine di amorevole grazia, ho cercato di delineare il sogno di una civiltà che fosse riuscita a raggiungere l'età adulta, in cui i rischi fossero stati affrontati e un'IA potente fosse applicata con abilità e compassione per migliorare la qualità della vita di tutti. Ho suggerito che l'IA potrebbe contribuire a enormi progressi in biologia, neuroscienze, sviluppo economico, pace globale, lavoro e significato. Sentivo che fosse importante dare alle persone qualcosa di stimolante per cui lottare, un compito in cui sia gli acceleratori dell'IA che i sostenitori della sicurezza dell'IA sembravano, stranamente, aver fallito. Ma in questo saggio attuale voglio affrontare il rito di passaggio stesso, delineare i rischi che stiamo per affrontare e cercare di iniziare a elaborare un piano di battaglia per sconfiggerli. Credo profondamente nella nostra capacità di prevalere, nello spirito dell'umanità e nella sua nobiltà, ma dobbiamo affrontare la situazione con onestà e senza illusioni. Come per parlare dei benefici, penso sia importante discutere i rischi in modo attento e ponderato. In particolare, ritengo sia fondamentale evitare il catastrofismo. Qui intendo catastrofismo non solo nel senso di credere che la rovina sia inevitabile, ma più in generale, pensare ai rischi dell'IA in modo quasi religioso. Molte persone hanno pensato ai rischi dell'IA in modo analitico e sobrio per molti anni. Ma ho l'impressione che durante il picco delle preoccupazioni sul rischio IA nel 2023-2024, alcune delle voci meno sensibili siano emerse, spesso attraverso account sensazionalistici sui social media. Queste voci usavano un linguaggio sgradevole che ricordava la religione o la fantascienza, e chiedevano azioni estreme senza avere le prove che le giustificassero. Era chiaro già allora che una reazione era inevitabile, e che la questione sarebbe diventata culturalmente polarizzata e quindi bloccata. A partire dal 2025-2026, il pendolo ha oscillato e l'opportunità dell'IA, non il suo rischio, sta guidando molte decisioni politiche. Questa oscillazione è sfortunata, poiché la tecnologia in sé non si cura di ciò che è di moda, e nel 2026 siamo considerevolmente più vicini al pericolo reale di quanto non lo fossimo nel 2023. La lezione è che dobbiamo discutere e affrontare i rischi in modo realistico e pragmatico, sobrio, basato sui fatti e ben attrezzato per sopravvivere ai cambiamenti di tendenza. Riconoscere l'incertezza. Ci sono molti modi in cui le preoccupazioni che sollevo in questo pezzo potrebbero essere irrilevanti. Nulla di quanto qui scritto intende comunicare certezza o persino probabilità. Nel modo più ovvio, l'IA potrebbe semplicemente non progredire affatto velocemente come immagino. Oppure, anche se progredisse rapidamente, alcuni o tutti i rischi qui discussi potrebbero non materializzarsi, oppure potrebbero esserci altri rischi a cui non ho pensato. Nessuno può prevedere il futuro con completa fiducia, ma dobbiamo fare del nostro meglio per pianificare comunque. Intervenire nel modo più chirurgico possibile. Affrontare i rischi dell'IA richiederà un mix di azioni volontarie intraprese dalle aziende e azioni intraprese dai governi che vincolano tutti. Le azioni volontarie, sia intraprenderle che incoraggiare altre aziende a fare altrettanto, sono per me una scelta ovvia. Credo fermamente che anche le azioni governative saranno necessarie in una certa misura, ma questi interventi sono diversi per natura perché possono potenzialmente distruggere valore economico o coercire attori riluttanti che sono scettici su questi rischi. È anche comune che le regolamentazioni si ritorcano contro o peggiorino il problema che intendono risolvere. È quindi molto importante che le regolamentazioni siano giudiziose. Dovrebbero cercare di evitare danni collaterali, essere il più semplici possibile e imporre il minor onere necessario per portare a termine il lavoro. È facile dire, nessuna azione è troppo estrema quando è in gioco il destino dell'umanità, ma in pratica questo atteggiamento porta semplicemente a una reazione negativa. Per essere chiari, penso ci sia una discreta possibilità che alla fine si raggiunga un punto in cui siano giustificate azioni molto più significative. Ma ciò dipenderà da prove più solide di un pericolo imminente e concreto di quelle che abbiamo oggi, così come da sufficiente specificità sul pericolo per formulare regole che abbiano una possibilità di affrontarlo. La cosa più costruttiva che possiamo fare oggi è sostenere regole limitate mentre impariamo se esistono o meno prove a sostegno di regole più forti. Detto tutto ciò, penso che il miglior punto di partenza per parlare dei rischi dell'IA sia lo stesso da cui sono partito parlando dei suoi benefici. Essere precisi su quale livello di IA stiamo parlando. Il livello di IA che solleva preoccupazioni a livello di civiltà per me è l'IA potente che ho descritto in macchine di amorevole grazia. Ripeterò qui la definizione che ho dato in quel documento. Per IA potente intendo un modello di IA, probabilmente simile nella forma agli LLM odierni, sebbene potrebbe basarsi su un'architettura diversa, potrebbe coinvolgere diversi modelli interagenti e potrebbe essere addestrato diversamente, con le seguenti proprietà. In termini di pura intelligenza, è più intelligente di un premio Nobel nella maggior di parte dei campi rilevanti. Biologia, programmazione, matematica, ingegneria, scrittura, eccetera. Ciò significa che può dimostrare teoremi matematici irrisolti, scrivere romanzi estremamente buoni, scrivere complesse basi di codice da zero, eccetera. Oltre ad essere semplicemente una cosa intelligente con cui parlare, ha tutte le interfacce a disposizione di un lavoratore umano che opera virtualmente, inclusi testo, audio, video, controllo di mouse e tastiera e accesso a internet, può intraprendere qualsiasi azione, comunicazione o operazione remota abilitata da questa interfaccia, inclusi compiere azioni su internet, ricevere o dare indicazioni agli umani, ordinare materiali, dirigere esperimenti, guardare video, creare video e così via. Svolge tutti questi compiti con, ancora una volta, un'abilità superiore a quella degli umani più capaci al mondo. Non risponde passivamente alle domande. Invece, gli possono essere assegnati compiti che richiedono ore, giorni o settimane per essere completati, e poi si mette a svolgere quei compiti in modo autonomo, come farebbe un impiegato intelligente, chiedendo chiarimenti quando necessario. Non ha un'incarnazione fisica, ma può controllare strumenti fisici esistenti, robot o attrezzature da laboratorio tramite un computer. In teoria, potrebbe persino progettare robot o attrezzature da utilizzare. Le risorse utilizzate per addestrare il modello possono essere riutilizzate per eseguire milioni di istanze dello stesso, e il modello può assorbire informazioni e generare azioni a una velocità circa 10 a 100 volte superiore a quella umana. Potrebbe, tuttavia, essere limitato dai tempi di risposta del mondo fisico o del software con cui interagisce. Ognuna di queste milioni di copie può agire indipendentemente su compiti non correlati o, se necessario, possono tutte lavorare insieme nello stesso modo in cui gli umani collaborerebbero, forse con diverse sottopopolazioni messe a punto per essere particolarmente brave in compiti specifici. Potremmo riassumere il tutto come un paese di geni in un data center. Come ho scritto in Macchine di amorevole grazia, un'IA potente potrebbe essere distante appena 1 o 2 anni, sebbene potrebbe anche essere considerevolmente più lontana. Quando esattamente arriverà l'IA potente è un argomento complesso che merita un saggio a sé stante. Ma per ora spiegherò brevemente perché penso ci sia una forte possibilità che possa accadere molto presto. I miei cofondatori di Anthropic ed io siamo stati tra i primi a documentare e tracciare le leggi di scala dei sistemi di IA. L'osservazione che man mano che aggiungiamo più potenza di calcolo e compiti di addestramento, i sistemi di IA migliorano prevedibilmente in praticamente ogni abilità cognitiva che siamo in grado di misurare. Ogni pochi mesi, l'opinione pubblica o si convince che l'IA stia sbattendo contro un muro o si entusiasma per qualche nuova scoperta che cambierà fondamentalmente le regole del gioco. Ma la verità è che dietro la volatilità e la speculazione pubblica, c'è stato un aumento costante e inesorabile delle capacità cognitive dell'IA. Siamo ora al punto in cui i modelli di IA stanno iniziando a fare progressi nella risoluzione di problemi matematici irrisolti. E sono abbastanza bravi nella programmazione che alcuni degli ingegneri più forti che abbia mai incontrato stanno ora affidando quasi tutta la loro programmazione all'IA. 3 anni fa, l'IA faticava con problemi di aritmetica elementare ed era a malapena in grado di scrivere una singola riga di codice. Tassi di miglioramento simili si stanno verificando in scienze biologiche, finanza, fisica e una varietà di compiti agentici. Se l'esponenziale continua, il che non è certo, ma ora ha un track record decennale a supporto, allora non possono passare più di pochi anni prima che l'IA sia migliore degli umani in praticamente tutto. In realtà, quel quadro probabilmente sottostima il tasso di progresso probabile. Poiché l'IA sta ora scrivendo grandi parti il codice in Anthropic, sta già accelerando sostanzialmente il tasso del nostro progresso nella costruzione della prossima generazione di sistemi di IA. Questo ciclo di feedback sta guadagnando slancio mese dopo mese, e potrebbe essere a solo uno o due anni da un punto in cui l'attuale generazione di IA costruirà autonomamente la prossima. Questo ciclo è già iniziato e accelererà rapidamente nei prossimi mesi e anni. Osservando gli ultimi 5 anni di progresso dall'interno di Anthropic, e guardando come stanno prendendo forma anche i modelli dei prossimi mesi, posso sentire il ritmo del progresso e l'orologio che ticchetta. In questo saggio, presupporrò che questa intuizione sia almeno in qualche misura corretta, non che l'IA potente arriverà sicuramente in 1 o 2 anni, ma che c'è una discreta possibilità che lo faccia, e una fortissima possibilità che arrivi nei prossimi anni. Come per macchine di amorevole grazia, prendere sul serio questa premessa può portare a conclusioni sorprendenti e inquietanti. Mentre in macchine di amorevole grazia mi sono concentrato sulle implicazioni positive di questa premessa, qui le cose di cui parlerò saranno inquietanti. Sono conclusioni che potremmo non voler affrontare, ma ciò non le rende meno reali. Posso solo dire che sono concentrato giorno e notte su come guidarci lontano da questi esiti negativi e verso quelli positivi, e in questo saggio parlo in grande dettaglio di come farlo al meglio. Penso che il modo migliore per avere una visione d'insieme dei rischi dell'IA sia porsi la seguente domanda. Supponiamo che un vero e proprio paese di geni si materializzi da qualche parte nel mondo intorno al 2027. Immagina, diciamo, 50 milioni di persone, tutte molto più capaci di qualsiasi premio Nobel, statista o tecnologo. L'analogia non è perfetta, perché questi geni potrebbero avere una gamma estremamente ampia di motivazioni e comportamenti, dal completamente arrendevole e obbediente allo strano e alieno nelle loro motivazioni. Ma attenendoci all'analogia per ora, supponi di essere il consigliere per la sicurezza nazionale di un grande Stato, responsabile della valutazione e della risposta alla situazione. Immagina, inoltre, che poiché i sistemi di IA possono operare centinaia di volte più velocemente degli umani, questo paese operi con un vantaggio temporale rispetto a tutti gli altri paesi. Per ogni azione cognitiva che possiamo intraprendere, questo paese può intraprenderne 10. Di cosa dovresti preoccuparti? Mi preoccuperei delle seguenti cose. 1. Rischi di autonomia. Quali sono le intenzioni e gli obiettivi di questo paese? È ostile o condivide i nostri valori? Potrebbe dominare militarmente il mondo attraverso armi superiori, operazioni informatiche, operazioni di influenza o produzione manifatturiera. 2. Uso improprio a fini distruttivi. Supponiamo che il nuovo paese sia malleabile e segua le istruzioni, e quindi sia essenzialmente un paese di mercenari. Attori canaglia esistenti che vogliono causare distruzione potrebbero usare o manipolare alcune delle persone nel nuovo paese per rendersi molto più efficaci, amplificando notevolmente la scala della distruzione. 3. Uso improprio per impadronirsi del potere. E se il paese fosse in realtà costruito e controllato da un attore potente esistente, come un dittatore o un attore aziendale canaglia? Potrebbe quell'attore usarlo per ottenere un potere decisivo o dominante sul mondo intero, sconvolgendo l'equilibrio di potere esistente? 4. Sconvolgimento economico. Se il nuovo paese non rappresenta una minaccia alla sicurezza in nessuno dei modi elencati nei punti 1 a 3 sopra, ma partecipa semplicemente pacificamente all'economia globale, potrebbe comunque creare gravi rischi semplicemente essendo così tecnologicamente avanzato ed efficace da sconvolgere l'economia globale, causando disoccupazione di massa o concentrando radicalmente la ricchezza. 5. Effetti indiretti. Il mondo cambierà molto rapidamente a causa di tutta la nuova tecnologia e produttività che saranno create dal nuovo paese. Alcuni di questi cambiamenti potrebbero essere radicalmente destabilizzanti. Penso che dovrebbe essere chiaro che questa è una situazione pericolosa. Un rapporto di un funzionario competente della sicurezza nazionale a un capo di Stato conterrebbe probabilmente parole come la più grave minaccia alla sicurezza nazionale che abbiamo affrontato in un secolo, forse mai. Sembra qualcosa su cui le migliori menti della civiltà dovrebbero concentrarsi. Al contrario, penso che sarebbe assurdo alzare le spalle e dire «niente di cui preoccuparsi». Ma, di fronte al rapido progresso dell'IA, questo sembra essere il punto di vista di molti policymaker statunitensi, alcuni dei quali negano l'esistenza di qualsiasi rischio dell'IA, quando non sono completamente distratti dai soliti stanchi vecchi temi caldi. L'umanità ha bisogno di svegliarsi, e questo saggio è un tentativo, forse futile, ma vale la pena provare, di scuotere le persone. Per essere chiari, credo che se agiamo in modo deciso e attento, i rischi possono essere superati, direi anche che le nostre probabilità sono buone. E c'è un mondo enormemente migliore dall'altra parte. Ma dobbiamo capire che questa è una seria sfida civilizzazionale. Di seguito, esaminerò le 5 categorie di rischio sopra delineate, insieme ai miei pensieri su come affrontarle.